Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 6 Elezione dei 7 Diaconi, crescendo di dindi il numero dei fedeli. Veemenza di Stefano, e suoi miracoli. Contro di lui insorgono moltissimi giudei, e non potendo convincerlo, procurano di opprimerlo per mezzo di falsi testimoni. Or in che giorni moltiplicandosi i discepoli, si querelavano i greci contro gli ebrei, perché nel giornaliere ministero non si facesse caso delle loro vedove. E i dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero, «Non è ben fatto, che noi abbandoniamo la parola di Dio per servire alle mense. Scegliete adunque, o fratelli, tra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo, e di sapienza, a quali diasi da noi l'incumbenza di tali occorrerne. Noi poi ci occuperemo totalmente all'orazione, e al ministero della parola». E piacque questo discorso a tutta la moltitudine. Ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, e Filippo, e Procoro, e Nicanore, e Timone, e Parmena, e Nicolao proseliti antiocheno. E li condusser davanti agli apostoli, i quali fatta orazione imposero loro le mani. E la parola di Dio fruttificava, e moltiplicavasi forte il numero dei discepoli in Gerusalemme, ed anche gran turba di sacerdoti ubbidiva la fede. Stefano poi pieno di grazia, e di fortezza faceva prodig, e segni grandi tra il popolo. Ma si levaron su dalla sinagoga detta dei Libertini alcuni e Cirenei, o Alessandrini, e uomini della Cilicia, e dell'Asia a disputare con Stefano, e non potevan resistere alla sapienza, e allo spirito, che parlava. Allora mandaron sotto mano alcuni, che dicessero di avergli sentito dire parole di bestemmia contro Mosè, e contro Dio. Mossero pertanto a tumulto la plebe, e i signori, e gli scribi, e corrigli sopra lo afferrarono, e lo trassero al consiglio. E produssero dei falsi testimoni, i quali dissero, «Costui non rifina di parlare contro il luogo santo, e la legge, impero che gli abbiamo sentito dire, che quel Gesù Nazareno distruggerà questo luogo, e cangerà le tradizioni date a noi da Mosè». E mirandolo fissamente tutti quei, che sedevano nel consiglio, videro la sua faccia, come faccia di un angelo. Note, 6,1. Moltiplicandosi i discepoli. Vale a dire i cristiani, come furono di poi chiamati quelli che la fede abbracciavano. Si querelavano i greci contro gli ebrei. Alcuni interpreti hanno creduto che questi greci fossero veri ebrei di origine, ma che dimorassero tra i greci, e non altra lingua parlassero fuori della greca, e ciò pretendono significarsi dalla voce ellenisti, di cui si vale esse, Luca nel testo originale. E questo è il sentimento dei pagine grei. Altri, che per questi greci abbiansi a intendere uomini gentili di origine, ma divenuti ebrei di religione, i quali erano chiamati proseliti, e di questi sappiamo grande essere stato il numero in che tempi. Perché nel giornaliero ministero ici. La più probabile spiegazione di queste parole si è, che deputandosi nella chiesa nascente delle vedove di matura età, e sperimentata prudenza per i ministeri più bassi, come per il servizio dei malati, per il sostentamento dei poveri, e per provvedere ai comuni e particolari bisogni dei fedeli. A questi ministeri erano fino a quel tempo state deputate le vedove ebree o più pratiche, o come meglio conosciute dagli apostoli. 6,2. Per servire alle mense. Intendesi con queste parole tutto ciò che riguarda la cura e l'amministrazione delle cose temporali, alla quale dicono gli apostoli non esser lodevole, che impiegassero egli un tempo, che a miglior uso avevano destinato. E di qui impararono i santi vescovi, i basilii, i gregori, gli agostini a sgravarsi interamente dell'amministrazione dei beni temporali della Chiesa, trasmettendone il governo in persone fidate secondo le diverse usanze nelle loro chiese introdotte. Molti padri spiegano queste parole per servire alle mense, non solo dell'amministrazione del temporale, e del cibo corporale da provvedere a tutta la comunità, ma ancora del cibo spirituale, e della distribuzione del corpo, e sangue del Signore, la quale continuò lungamente ad essere nella Chiesa uno degli uffizi dei diaconi. E benché santo fosse, e divino un tale uffizio, preferivano a questo gli apostoli la predicazione, come anche al battezzare la preferiva l'apostolo S. Paolo. Vedi la prima ai Corinti. 6,3. Scegliete adunque, eci quantunque potessero gli apostoli di loro autorità scegliere i sette diaconi, ne lasciano alla moltitudine l'elezione, riservandosi l'autorità di ordinarli, e di assegnare ad essi la parte del ministero, per cui erano creati. In questa forma furono per molti secoli nella Chiesa eletti non solo i primari ministri, ma anche i sacerdoti, e i chierici inferiori, l'approvazione del popolo avendosi in quei tempi per molto conveniente, non solamente secondo la piacevolezza del governo ecclesiastico, ma anche per onore del ministero, e per una certa caparra della ubbidienza dello stesso popolo. Questa lodevole usanza non fu cangiata, se non dopo che raffreddatasi la carità, e risvegliatasi l'ambizione, e lo spirito di partito, la necessità dei tempi, e il timore dei mali provenienti dalla discordia indussero la Chiesa a cangiar di sistema in questo punto di disciplina. 7 uomini e c. Questo numero dove essere bastante per provvedere alle occorrenze della Chiesa di Gerusalemme, non di meno anche in molte delle più grandi e antiche chiese rimase fermo, e invariabile, e la prima di tutte, la romana, non ebbe più di 7 diaconi. Di buona reputazione, pieni di Spirito Santo, e di sapienza, eci. Le doti, che gli apostoli richiedono in coloro, che debbono essere prescelti per il diaconato, danno insieme un'altissima idea di tal ministero, e della virtù grande, che è necessaria per la santa, e retta, e fedele dispensazione dei beni ecclesiasti. 6,4. Noi poi ci occuperemo all'orazione, e al ministero della parola. Col nome di orazione intendesi qui, primo quello che in oggi da noi si dice l'uffizio divino, ossia l'orazione pubblica, alla quale adunavasi tutto il popolo, presiedendo gli apostoli, e offerendo essi il sacrificio, in secondo luogo anche la privata orazione, nella quale impiegavano il tempo, che potevano aver libero dalle laboriose funzioni dell'apostolato, seguitando anche in questo l'esempio del divino loro maestro, e ad imitazione di lui ritraendosi di tanto in tanto dalla distrazione. Delle azioni esteriori, benché lodevoli e sante, nella solitudine del cuore per trattare con Dio e dei propri bisogni, e dei pubblici interessi della sua Chiesa. 6,5. E l'essero Stefano, uomo pieno di fede e ci. Non si sa se Stefano e gli altri, che furono eletti diaconi, fosser del numero dei discepoli di Gesù Cristo, oppur convertiti al Vangelo dagli apostoli, essendo su questo punto diversi i sentimenti degli antichi padri. L'istoria del martirio di Stefano ci farà conoscere fino a qual segno egli fosse pieno di fede e di Spirito Santo. Di Filippo si fa menzione nel capo 8 di questa storia, e nel capo 21. E Ali era di Cesarea della Palestina. Di Procoro, Nicanore, Timone, e Parmena molte cose sono state scritte da autori greci dei bassi secoli, alle quali come non appoggiate a nessun antico documento non possiamo prestare sicura fede. La Chiesa latina e la Chiesa greca convengono nell'onorarli col titolo di martiri. Quanto al diacono Nicolao dalle parole di S. Luca veggiamo, come egli era di origine gentile, ma avea poi abbracciata la religione giudaica, e finalmente si era fatto cristiano, e non ordinaria convien dire, che fosse la sua virtù, mentre per giudizio di tanti santi ebbe luogo si onorato nella Chiesa di Dio. Ma se prestisi fede a S. Epifanio, a sì bei principi il fine non corrispose, impero che dopo essersi per amor della castità volontariamente separato dalla sua moglie, tornò di poi a ripigliarla, e per l'ostinazione di difendere il proprio errore diede in strane e abominevoli dottrine, le quali furono poi il patrimonio degli eretici detti gnosti, e anche Nicolaiti dal nome di questo diacono. Ma S. Clemente d'Alessandria e S. Agostino dicono che del nome di Nicolao abusarono indegnamente questi eretici per dar corso e reputazione alle loro oscenissime e mostruose invenzioni, sinistramente interpretando qualche suo detto, quantunque ed egli, e un suo figliuolo, e le figlie risplendessero singolarmente per la loro castità. 6,6. Fatta orazione imposer loro le mani. Gli ordinarono pel servizio dell'altare, mediante l'orazione, e la imposizione delle mani, con la quale imposizione davasi ad essi lo Spirito Santo, e la grazia per degnamente adempiere le funzioni del ministero. Con questo rito venuto a noi sino dagli apostoli sono stati sempre ordinati nella Chiesa i diaconi. E queste parole di esse, Luca dimostrano evidentemente che i sette diaconi non furono eletti solamente per l'amministrazione del temporale, ma anche per il ministero spirituale, e particolarmente per assistere al sacrificio dell'altare, e per dispensare il corpo e il sangue del Signore a fedeli adunati, e anche per portarlo nelle case a quelli che per malattia o altro non avevano potuto intervenire alla celebrazione dei sacri misteri, come racconta esse. Giustino Martire Apolog. 2:6,7. Gran turba di sacerdoti ubbidiva alla fede. I sacerdoti giudei erano in grandissimo numero, come si può vedere da Esdra, Libri, capitolo 2, 36, e non vi è dubbio che da tempi di Esdra in poi fossero grandemente moltiplicati. 6,9. Della sinagoga detta dei Libertini, alcuni e Cirenei, eci. Si parla di una sola sinagoga frequentata da Libertini tanto Cirenei, che Alessandrini, e della Cilicia, e dell'Asia. Libertini dicevansi generalmente in questo tempo gli schiavi rimessi in libertà, la condizione dei quali si riputava inferiore a quella di chi non era mai stato in servitù. Onde meraviglia non è se tra le diverse sinagoghe di Gerusalemme una venne avea destinata per i libertini giudei, i quali erano in grandissimo numero in questi tempi, dopo che i Romani dalla Palestina e dall'altre parti dell'Oriente condotto avevano a Roma un grandissimo numero di ebrei fatti schiavi nella guerra, molti dei quali avevano di poi recuperata la loro libertà, come vediamo da quello che racconta Tacito nei suoi annali, dove dice che Tiberio cacciar volendo di Roma la superstizione. Deg giudei, 4.000 libertini di questa nazione mandò in esilio nella Sardegna, e gli altri discacciò dall'Italia. Notisi che in Gerusalemme non tanto per l'ampiezza della città, ma anche per il concorso degli ebrei da tutte le parti del mondo, era un grandissimo numero di sinagoghe, cioè fino a 480, volendo ogni nazione avervi la sua. Vedi Lightfoot ora ebr. In met. Proem. XXVI, 6,10, non potevan resistere alla sapienza, e allo spirito, che parlava. Vedesi qui l'adempimento della promessa di Gesù Cristo, il quale detto avea, che darebbe a predicatori del suo Vangelo lo spirito del Padre, il quale per bocca di essi parlerebbe con forza tale, che non saprebbe resistervi i loro avversari. Vedi Met. X, 20. 6,11. Parole di bestemmia contro Mosè, e contro Dio. Non vi voleva nulla di più a concitare la moltitudine contro del santo diacono, che farlo apparir reo di mancanza di rispetto riguardo a Mosè, di cui si vantavano tanto di essere discepoli, e tutto quello che pretendevano aver lui detto contro Mosè, tendeva a ingiuria di Dio medesimo, del quale era Mosè ministro, e ambasciatore. Con tali calunnie procurano di trarre la plebe a opprimere per impeto di falso zelo l'innocente, cui non avrebbero potuto per le ordinarie vie di ragione togliere la vita. 6,14. Distruggerà questo luogo, e cangerà le tradizioni eci. Se è un'impietà il dire che il Tempio debba essere distrutto, Daniele ha predetto la stessa cosa, capitolo 9. Vers. 26, e Geremia, capitolo. XXVI, 6. Quanto alle tradizioni, forse Stefano aveva citato il luogo di Malachia, capitolo I, 1.I, e altri simili, dove si dice che in luogo di tanti sacrifici sarebbesi offerta per il mondo tutto una oblazione monda non da un solo popolo, ma da tutte le genti, le quali dovevano conoscere e adorare il Signore. 6,15. Come faccia d'un angelo. Comparve nel volto di lui uno splendore sovrumano e celeste, lampeggiando anche all'esterno qualche raggio della grazia interiore, onde egli era ripieno,